Italia in controluce. San Basilio, periferia est di Roma. Quello che è successo ieri sera è una bella grana davvero per il nuovo sindaco di Roma, Ignazio Marino. Una banale lite stradale che lascia a terra un uomo morto, un ragazzo finisce in ospedale per una coltellata, ad un operatore del 118 viene rotta una spalla. E poi c'è la rabbia della gente del quartiere contro le forze dell'ordine, contro gli operatori sanitari intervenuti con l'ambulanza. Scene davvero di ordinaria follia in un quartiere che comunque preoccupa e non da questi giorni, perché c'è poco lavoro, pochissimi servizi, in compenso c'è tantissima droga con gli spacciatori appostati ad ogni angolo di strada. Perché la gente di San Basilio è così arrabbiata nei confronti delle forze dell'ordine? Quello che vi chiediamo oggi, e vi chiediamo di scriverci un sms al 349-238-6666. Fra pochissimo sentiremo l'opinione di Emiliano Sciascia, presidente del quarto municipio di Roma, insomma lui che conosce bene la zona. Che cosa sta succedendo? Prima ci colleghiamo con la nostra Monica Ceravolo. Dove ti trovi, Monica? Buongiorno, io mi trovo proprio a San Basilio e qui oggi ho parlato con la gente che, come già anticipato, si nasconde dietro l'anonimato, nessuno vuole parlare, sono arrabbiati ma sono anche molto impauriti, perché questa è una zona presidiata anche dalla criminalità, una specie di zona franca. Ve la voglio raccontare per come l'ho vista. E adesso ce la racconterai. Prima invece voglio sentire, ripartendo un po' dai fatti di ieri sera, da quello che è successo, perché ci ha aiutato a ricostruire la vicenda il capo della squadra mobile di Roma, Renato Cortese. In particolare, tu stessa, Monica Ceravolo, gli hai chiesto di spiegarti bene che cosa può essere successo, in particolare sull'assalto all'ambulanza. Sentiamo. Probabilmente a modo loro dei soggetti presenti contestavano un ritardo dell'ambulanza, ma questo appunto lo stiamo ancora chiarendo, questa vicenda, però insomma tutto sommato è rientrata abbastanza velocemente. Tenete presente che è una vicenda che nasce tra soggetti che abitano in quella zona, un quartiere un po' particolarmente, presenta particolari difficoltà quel quartiere, per cui insomma una vicenda che si sviluppa tra litigi per motivi stradali, con i feriti e poi morto per strada, si è creato un po' di particolari problematiche di ordine pubblico, però per fortuna insomma si è risolto in tempi brevi. Questi dunque i fatti, ora si temono anche spedizioni punitive, nuove violenze, insomma il clima oggi, Monica, com'è il clima? È piuttosto teso, direi. Il clima è decisamente teso, ma è di calma apparente, una tensione che si respira, ma non si avverte. Le forze dell'ordine, come sempre, fanno i loro giri nei territori, presidiano, ma oggi è un giorno diverso, lo dicono per strada, dicono temiamo che qui scoppi la bomba. Al momento però, ecco, è tutto tranquillo, anche proprio nello scenario di questo omicidio. È una zona di casermoni popolari occupati anche in parte negli anni scorsi, e quindi sono case occupate, case regolarmente assegnate, pochi servizi, quasi inesistenti. C'era un unico bar che è stato chiuso perché lì si spacciava, in gergo lo chiamano la buca, è un posto a ferro di cavallo dove c'è un unico ingresso e un'unica uscita. Qui si spaccia alla luce del sole e ci sono le vedette sui palazzi pronte a indicare l'ingresso o delle forze dell'ordine, quindi è anche molto facile poter spacciare. Certo. Emiliano Sciascia, presidente del quarto municipio di Roma, che cosa, insomma, sentivamo prima il capo della squadra mobile di Roma, Renato Cortese, che parlava di un quartiere che presenta particolari difficoltà. Monica Ceravolo ci parlava di uno spaccio a cielo aperto. Che quartiere è San Basilio? Buongiorno a tutti. Innanzitutto, guardi, io vorrei esprimere la mia solidarietà nei confronti sia dell'operatore del 118 che è stato aggredito, se nei confronti chiaramente delle forze dell'ordine, perché chi sta... Certo, ci mancherebbe altro, solidarietà. Ecco, ma che quartiere è questo San Basilio? Perché è successo questo? La che idea si è fatta? Guardi, noi all'indomani, dopo il 26-27 maggio, dopo il primo turno delle amministrative, c'è stato un omicidio a Tor Sapienza, che è un altro quartiere periferico, non nel nostro municipio, ma adiacente, insomma, vicino a noi. Io credo che è stato ucciso un pensionato per strada, in pieno giorno, sì, tra l'altro. Cioè, io credo che ci sia, come si diceva prima, un profondo malessere che è dovuto anche ad una crisi che sta attanagliando soprattutto nelle realtà, diciamo, più periferiche, sia della città e chiaramente poi in maniera più estesa tutto il paese, nei confronti del quale le istituzioni tutte devono intervenire sia per risolvere il problema chiaramente occupazionale, ma anche per dare, a mio avviso, altri tipi di, come dire, devono fare altri tipi di investimenti. È anche la teoria del ministro dell'Interno Alfano, perché proprio pochi minuti fa ha detto che nel prossimo Consiglio dei Ministri approveremo un piano per la sicurezza urbana per liberare i cittadini dalla paura, perché la crisi economica, ha spiegato Alfano, può produrre nei cittadini un aumento dell'esasperazione e quindi, insomma, bisogna intervenire rapidamente. Ecco, ma nella specificità di San Basilio che cosa sta succedendo? San Basilio è un quartiere, è uno dei primi insediamenti, diciamo, che noi abbiamo nel municipio, quindi si colloca più o meno nel periodo del ventennio fascista, ecco, diciamo adesso la data esatta. Poi si è sviluppato chiaramente sempre di più fino a raggiungere l'estensione più alta nel corso degli anni 60, dove abbiamo avuto sicuramente il maggior numero di, dove è aumentata sicuramente la densità di popolazione. Un quartiere dove c'è edilizia popolare, sia ATER che case del comune. Però voglio dire, e questo ci tengo a dirlo, mi permetta, però, che poi finisce nelle cronache per questi episodi, ma che è fatto di tanti onesti cittadini che vivono serenamente appunto nel quartiere, che purtroppo su questo non c'è dubbio, ovviamente quelli non finiscono in prima pagina perché fanno, esatto, solo però, il loro dovere, però questi buoni cittadini vorrebbero anche camminare per strada senza che gli arrivasse, esatto, una parlottola in testa. Ecco, allora a questo punto volevo capire da lei che quartiere è, nel senso, ci sono pochi servizi, ci sono le scuole, ci sono, guarda, le strade, hanno qualcosa servizi da fare le persone a San Basilio, che in questo momento tra l'altro non hanno neanche, guardi, tanta, allora, possibilità di trovare un lavoro? Guardi, noi i servizi li abbiamo attivati sul quartiere e li abbiamo sempre avuti proprio nel quartiere di San Basilio. Probabilmente dobbiamo implementarli, dobbiamo ampliarli. Abbiamo un centro culturale all'interno del quartiere che è stato aperto pochi anni fa dalla giunta Alemanno, ma che probabilmente non funziona in maniera adeguata. Cioè, dobbiamo cercare di capire se è possibile implementarne l'utilizzo per aprirlo il più possibile appunto al quartiere. E purtroppo in tutto il municipio, ma soprattutto San Basilio e altri quartieri del territorio hanno avuto un tasso di abbandono scolastico molto alto, quindi sì, per questo dico che le istituzioni debbono intervenire soprattutto, sì, in termini culturali, perché questa e le istituzioni è la però è anche lei, Sciascia, quindi insomma, no, dico, le istituzioni è anche lei un, sì, uomo, sì, delle istituzioni, no, ma... quindi datevi da fare perché questo non accada più. Guardi, guardi, io queste ore mi sto insediando dopo la fase a elettorale. Posto, quindi si metta al lavoro, grazie poteri, mille. Sarà un impegno che porteremo avanti. Grazie ad Emiliano Sciascia, presidente del quarto municipio di Roma, grazie a Monica Ceravolo che ci ha raccontato cosa sta succedendo nel quartiere, un ringraziamento a Filippo Reggi in regia, un saluto da Maria Piera Ceci.